di sada. Iye oge lalagunan sabara bae damoa lila kakok da asa etik deui bisika aburu hoream. Motong besi kuragaji di sadana cecekitan. Motong besi kuragaji kudu di banjuri kucai. Motong besi kuragaji di sadana cecekitan. Motong besi kuragaji kudu di banjuri kucai. Kuragaji kudu